479. Storione. Mi permetta il lettore di fare un po' di storia su questo pesce interessantissimo. Lo storione appartiene all'ordine dei ganoidi, da ganus, che vuol dire lucente, per la lucentezza delle squame, e al sottordine dei condrostei, per avere lo scheletro cartilagineo. Costituisce la famiglia degli Acipenser, che si qualifica appunto per questi due distintivi e per la pelle a cinque serie longitudinali di placche a smalto. È un pesce che ha la bocca posta alla faccia inferiore del capo, priva di denti e in forma di succhiatoio protrattile, con cirri nasali, ossia tentacoli, per cercare sotto le acque nel fango il nutrimento che pare consista di piccoli animalucci. Sono animali molto in pregio per le loro carni, per le uova che costituiscono il caviale e per l'enorme vescica natatoria con cui si forma l'ittio colla o colla di pesce. In primavera rimontano i fiumi per deporre le uova in luoghi tranquilli lungo le sponde. L'Italia ne alberga diverse specie, la più stimata delle quali come cibo è l'Acipenser sturio, storione comune. Lo si riconosce pel muso acuto, pel labbro inferiore carnoso e nel mezzo diviso, nonché per i cirri nasali semplici e tutti uguali tra loro. Frequenta a preferenza le foci del Ticino e del Po. Ove non è gran tempo, ne fu pescato uno che pesava chilogrammi 215. Ma la specie che prende maggior sviluppo è l'Acipenser uso, il quale raggiunge fino a 2 metri e più di lunghezza, con ovaia grandi un terzo dell'animale, ed è questa particolarmente che somministra il caviale e l'ittiocolla. Il primo è formato dalle uova crude degli storioni, passate per setaccio onde levarne i filamenti che le inviluppano, indi salate e fortemente compresse. La seconda preparasi sulle spiagge del Mar Caspio o sulle coste dei fiumi che vi sboccano, ma più che altrove ad Astrakhan. Non farà meraviglia la quantità straordinaria che se ne trova in commercio, servendo l'ittiocolla a molti usi, se si considera che talvolta nel Volga si pescano da 15 a 20.000 storioni al giorno, e di là, cioè dalle province meridionali della Russia, ci viene anche il caviale. Fu annunziato che dei pescatori del Danubio presero, non a guari, uno storione del peso di 8 quintali e che la spoglia di questo enorme pesce, lungo metri 3,30, figura nel museo di Vienna. Fra le specie estinte si annovera il Magadictis, che raggiungeva la lunghezza di 10 a 12 metri.